Vorrei articolare questo pensiero, vale a dire, noi non intendiamo il lavoro nel senso tradizionale della nostra rappresentanza. Noi intendiamo il lavoro nel senso largo del concetto, il lavoro fatto dai lavoratori, il lavoro fatto da chi produce, da chi, dal mondo degli artigiani, della piccola impresa, dell'industria, della produzione, ritornando a quel concetto di lavoro che è contenuto anche nel dettato costituzionale. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e quando i padri l'hanno scritto non si riferivano solo al lavoro dipendente. Quindi il lavoro, perché, guardate, per sintetizzarla, il primo atto che ha fatto questo governo, il primo atto, è stato quello di abolizione della tassa di successione. Non è stato un caso, è stato un segnale chiaro, nitido, che questo governo, quel governo, avrebbe privilegiato le rendite finanziarie rispetto alla rendita da lavoro, in senso ampio della parola. Vale a dire, ha spostato capitali dagli investimenti produttivi agli investimenti speculativi. Quando in un paese la tassazione del lavoro è la più alta in assoluto, e la tassazione rispetto alle rendite finanziarie speculative, la più bassa d'Europa, si capisce qual è il segnale che il governo vuole dare. E guardate, anche le vicende che stiamo discutendo adesso, sia da Ricucci a Unipol, sono figlie di questa idea di un'economia nel quale si riesce a fare molti quattrini in poco tempo. È figlia di questa idea. E quindi quando noi parliamo di crisi morale, parliamo anche di questo, di una concezione, di una valorizzazione del lavoro come elemento supremo della costruzione della società. Quando noi parliamo di lavoro, parliamo di qualità del lavoro, ma parliamo anche di qualità dello sviluppo, parliamo anche di qualità dello stato sociale, parliamo di qualità delle relazioni fra i soggetti istituzionali di rappresentanza. Parliamo di qualità della società, di quello che con una parola viene spesso richiamata e poco praticata, che è la coesione sociale. Questo è quello che noi intendiamo dire per lavoro. Credo che sia un contributo importante e interessante.